Melog, la realtà condivisa di Gianluca Nicoletti. Oggi parliamo di mafia, non soltanto di mafia. Il 23 maggio 1992 muore Giovanni Falcone. Tra qualche giorno tutti parleranno della ricorrenza dei 20 anni da questo episodio fatale. Noi questa mattina, nel rispetto e nella anticipazione di questo ricordo, parleremo anche di altre persone. Nella lotta fra Stato e mafia esistono vari livelli di esistenza. Esistono i mafiosi, di cui si parla molto, che diventano grandi personaggi nella fase della loro latitanza, della loro impossibilità ad essere collocati in delle figure fisiche. Alcuni poi vengono presi, vengono messi in carcere e diventano dei personaggi per la loro carcerazione, per i loro lunghi processi. Poi esistono le vittime della mafia, a vari livelli. I grandi magistrati, le grandi vittime, si arriva fino alla giusta, lecita e mi sembra meritoria collocazione sugli altari delle grandi vittime della mafia, di coloro che sono stati in primo piano, di coloro che passeranno alla storia, appunto, come appunto accaduto per Giovanni Falcone, per Paolo Borsellino e per tantissimi altri di cui molto si parla e molto si parlerà. Poi esiste una fase intermedia. Esiste una fase intermedia di persone appartenenti, funzionari dello Stato a vari livelli, che si sono molto dati da fare. Hanno molto operato nella battaglia, nella guerra contro la mafia, contro la malavita organizzata, però di cui si parla molto poco, o perlomeno nessuno si prende la briga di parlare, perché sono persone che hanno semplicemente fatto il loro dovere. Hanno fatto il loro dovere, hanno rischiato la loro vita, hanno compromesso le loro esistenze, hanno significativamente rinunciato a gran parte della loro felicità lecita, quotidiana, banalmente umana, per fare il loro dovere. Si sono trovati un giorno al di fuori del meccanismo che professionalmente dava loro grado di esistenza per vari motivi e poi sono scomparsi. Beh, di questi parleremo questa mattina. Ne parleremo con un amico, un ospite ricorrente alla nostra trasmissione, ma vogliamo semplicemente darvi un assaggio di quello che è l'argomento di cui parleremo. Il viaggio della droga stava per terminare. Mancava solo uno scalo. La polizia spagnola, con una squadra del ROS cappeggiata da Galimberti, salì a bordo e sequestrò il container della ditta Merea, quella utilizzata dai colombiani per trasportare il pesce surgelato. Sotto i bancali, con il pesce, si stendeva un pavimento di 260 pani di cocaina da un chilo l'uno. L'operazione venne tenuta sotto silenzio. Entrai io. Si trattava dell'ultima recita. Ero scuro in volto. Finsi di leggere anch'io quel verbale. Si poteva procedere. Aprii la porta. Silenziosamente, sotto lo sguardo incredulo di Carlos Doldan, una decina di carabinieri fecero ingresso nella casa. Doldan mi guardava sbigottito. Non capiva perché io dessi ordini a quei militari. Ebbi solo il coraggio di dire: «Mi dispiace, ma non sono Don Riccardo. Sono un colonnello dei carabinieri». Mi sentivo una carogna. Avvertivo un innaturale senso di sofferenza. Ma sentivo di non avere nulla da festeggiare. Non tanto che quei trafficanti finissero in manette. Faceva parte delle regole di un gioco a cui tutti avevano accettato di partecipare. Ma nel codice genetico del carabiniere non c'è posto per il tradimento e per l'inganno. Da infiltrato sei più simile a una spia. La spia tradisce. Il carabiniere è un avversario leale. Ed io, come una spia, avevo usato l'arte dell'inganno. Angelo Iannone, buongiorno. Buongiorno. Angelo Iannone, tu eri quel tenente colonnello infiltrato. Quanto ha rischiato la pelle quella volta? Da 1 a 10. Da 1 a 10. Io sono convinto, ma forse è una mia percezione dovuta anche all'abitudine, di non averla rischiata affatto. Eh sì, adesso. perché sei finto un boss narcotrafficante, hai vissuto contiguamente con persone che, se solo avessero avuto il minimo sospetto che tu fossi stato un carabiniere, ti avrebbero tagliato a pezzettini e dato da mangiare al gatto. A parte il fatto che ovviamente avevo sempre le spalle abbastanza coperte dai miei validissimi collaboratori, quindi non ero mai solo di fatto, che loro erano i miei angeli custodi. Ma in secondo luogo l'esperienza investigativa dimostra, almeno nelle realtà italiane, nelle nostre mafie, che quando Cosa Nostra, poi è un discorso a parte ovviamente, no, ma in quel caso in casi come quelli, se intuiscono che di trovarsi di fronte ad un carabiniere infiltrato, spariscono, punto. Allora, ricordo Angelo Iannone, questa storia ve l'abbiamo già raccontata un'altra volta ai microfoni di Melog, delle vicende del ex tenente colonnello dei Ross. Angelo Iannone oggi è un consulente aziendale, docente di criminologia alla Sapienza, è un saggista, scrive libri con le sue storie, con le sue memorie, e questa mattina è proprio qua perché ha scritto Eroi Silenziosi, Data News Editore, che è la storia di una serie di persone che come lui hanno fatto il loro dovere. Non le ricorderemo con due date perché semplicemente ce l'hanno fatta, è andata bene. Angelo Iannone è molto sicuro di sé, era sicuro delle persone, dell'apparato che lo proteggeva. Io sono convinto che abbia più volte rischiato la vita, molte volte rischiato la vita, ma nonostante questo, adesso questa mattina qui sorridente per ricordare tutti quei suoi colleghi che nessuno ricorda, molte volte nemmeno perché ci sia un disegno dietro di voler eliminare la memoria di persone, semplicemente perché il ricordo presuppone degli aspetti emotivi molto forti, presuppone un martirio. Queste persone come te non siete stati martiri, avete fatto il vostro dovere. Sì, sono persone che hanno fatto semplicemente il loro dovere, anzi io vado anche oltre, perché penso che comunque un ufficiale o chi ha compiti, ha incarichi, ha ruoli di responsabilità, se non altro consciamente o inconsciamente, consapevolmente o inconsapevolmente, ha una spinta ulteriore, la spinta della carriera, la spinta naturale di mettersi in evidenza. Invece quei carabinieri appuntati, brigadieri, marescialli, spesso sono persone che danno veramente l'anima per quello che fanno, semplicemente per la passione per il lavoro che fanno, perché credono o perché credono nel loro comandante, quindi nella guida che hanno. Ecco, per far capire quanto sia poliedrico e variegato il mestiere di quelli come te, abbiamo parlato di un infiltraggio tra i narcotrafficanti, parleremo tra poco di una lunga osservazione del covo di Totò Riina, di cui sei stato protagonista. Questa mattina scorrevo le pagine dei giornali, guardavo la cronaca, la nostra amica e collaboratrice di Radio 24 Cristina Cattaneo sta analizzando i resti del corpo di Renatino De Pedis, appena resumato dalla Basilica di Santa Pollinare a Roma, c'è un grande giallo dietro Emanuele Orlandi. Questo corpo tu l'hai raccolto caldo, appena ammazzato. Sì, perché all'epoca, adesso non ricordo esattamente la data, comunque siamo nell'89, io ancora ero qui a Roma, alla territoriale, alla compagnia Roma Eure, come giovane capitano, prima di approdare a Corleone, e appunto fu ucciso Renato De Pedis, quindi i miei collaboratori intervenimmo sul luogo dell'omicidio e avviamo le prime indagini. Ricordo che con il dottor Giovanni Salvi, pubblico ministero all'epoca, titolare del procedimento relativo all'omicidio, sviluppammo tutta quella serie di contatti telefonici che erano contenuti semplicemente in una modestissima agendina cartacea, come quelle che si usavano un tempo. Che gli hai trovato tu addosso? Che aveva addosso nel suo giubbino. Gli hanno sparato qui a Roma? Sì, lui era su un Vespino e era lì nel quartiere della Magliana, gli hanno sparato. Tu Giovanni Falcone lo citi nel tuo libro, vi siete parlati, in che occasione? Ma Giovanni Falcone ci siamo parlati non una volta ma diverse volte, perché quando poi dopo Roma sono approdato, come dicevo, a Corleone alla tenera età di 28 anni. Era un giovane capitano. Era un giovanissimo capitano, forse non avevo ancora compiuto 28 anni. E fui lusingato ovviamente dall'arma che mi ricordò che a Corleone c'era stato l'allora capitano Dalla Chiesa, anche se non da comandante di compagnia ma da comandante delle squadriglie a cavallo, E chiaramente a Corleone c'era da fare soltanto una cosa, cioè occuparsi della latitanza di Rina. Obiettivo strategico era quello. E quindi immediatamente mi misi in contatto con Giovanni Falcone, lo andai a trovare e avviammo le indagini. Come fu quel periodo? Ne hai già parlato altre volte, ma vale la pena ricordarlo, perché poi in questo libro entra ancora di più nei particolari. Questa tua caccia al padrino, oggi parlai di Torina, si parla di qualcosa che sembra un capitolo chiuso perlomeno, ma allora era apertissimo il capitolo. E tu dovevi sorvegliarlo con sistemi ancora molto analogici, perché erano anni in cui non esisteva la tecnologia di cui i telefilm oggi ci hanno reso tutti espertissimi. Cosa usavi te per sorvegliare? Capire, vedere, allora, più vecchia antica delle maniere, immagino. Da tenere presente che inizialmente chiaramente ci fu semplicemente da parte mia lo sforzo di capire la cultura di quel posto, quindi come si muovevano, come pensavano, come ragionavano. Dopodiché, tu sei pugliese? Sì, sì, sì. Però dovevi capire tutto, era un altro mondo rispetto al tuo mondo. Un altro mondo rispetto soprattutto al mondo investigativo a cui ero stato abituato sino a quel momento, cioè Roma. A Roma c'era il banditone tradizionale che doveva ostentare il suo status symbol, no? Quindi la crescita... Erano gli anni d'oro della banda da Magliana. Ecco. Esatto. Che quindi... già è un film, è un telefilm, è un mito, e tu l'hai vissuto. Io l'ho vissuta, ho vissuto, ripeto, l'omicidio di Renato De Pedis, ho vissuto la fuga dalla clinica Villaggina dove era ricoverato di Abbatino Maurizio, che formalmente era uno che non si sarebbe potuto nemmeno muovere con le proprie gambe, invece era riuscito tranquillamente ad evadere. Ricordo che all'epoca saltarono diverse teste per le responsabilità che furono accertate. Dicevamo sui sistemi di investigativi di quel tempo. Anni erano anno più o meno? Fine anni 80, quindi 89 sostanzialmente. Io arrivai appunto a comandare la compagnia di Corleone nel settembre dell'89 e si partì con le tradizionali classiche intercettazioni telefoniche. Ricordo che la prima cosa di cui mi preoccupai era di restringere lo spazio eccessivo del mio ufficio e ricavare da una parte di quello spazio una sala intercettazioni. Il problema è che ovviamente intercettazioni non erano assolutamente sufficienti per quel genere. Poi non esistevano i cellulari, non esistevano i cellulari, intercettare una linea fisica. Assolutamente, quindi sostanzialmente significava il silenzio più assoluto. E invece io ebbi la fortuna di sperimentare con una intuizione, tra l'altro, che fu proprio di uno di questi appuntati, l'appuntato Saitta, che poverino non ha avuto nemmeno il piacere di leggere questo libro perché è morto nel dicembre scorso, ed era, sapeva che stavo scrivendo, quindi era quasi in attesa che questo libro uscisse, ormai in pensione da qualche anno. Grazie ad una sua intuizione, dicevo, si sperimentarono praticamente le primissime microspie, e con una qualità di audio, quindi con una tecnologia che all'epoca sembrava avveniristica, oggi sono già pezzi di antiquariato. Le compri di migliori delle bancarelle dei cinesi qua fuori. Sono pezzi di antiquariato, quindi difficoltà proprio di intelleggere, rumori di fondo pazzeschi, eccetera. E a questa tecnologia si affezionò un altro di questi eroi silenziosi, che l'ha puntato Manti Bruno, che quando io arrivai a Corleone faceva semplicemente il piantone alla caserma, però era uno di quelli che meglio di tutti conosceva il dialetto corleonese, e lui diventò praticamente un tutt'uno in questo archivio cartaceo, su un modestissimo tavolino passava le giornate intere a cercare di cogliere qualche parola interessante che ci potesse avvicinare al latitante. Lui conoscesse la lingua. Allora, 800 24 00 24, quanti di voi avessero curiosità, domande o parte della loro esperienza da confrontare con il comandante Angelo Iannone, lui è qui per rispondere. Ma poi questa mattina abbiamo anche una singolarità: sono tanti anni che faccio radio e non è mai accaduto di avere contemporaneamente nello studio un ex poliziotto e un ex interrogato dal poliziotto, carabiniere, comunque persona che sta dalla parte della legge, un investigatore e un investigato. Avvocato Florinda Mirabile, buongiorno. Buongiorno. Alzi la voce, non sia timida. Sono commossa, perché so... Adesso avere davanti Angelo Iannone nella veste di ospite alla radio la tranquillizzerà. Quando la interrogava com'era? Era sì, implacabile. Che anno era? Molto, che anno era? Stiamo parlando del 94-95, io ero poco più che ventenne, avevo perso da poco tempo mio padre, era stato ucciso nel 90. Suo padre era Mario Mirabile, sì, era, sì, io sono una figlia. Il termine era un boss della Camorra. Sì. E dell'Andrangheta dopo, purtroppo dopo sì. E lei era sua figlia? Sì. E quindi fu interrogata ad Angelo Iannone? Sì, perché purtroppo si stavano verificando delle anomalie durante le indagini, nel senso che c'era qualcuno che depistava. Lei era molto giovane allora? Sì, era il giorno del mio compleanno, compivo 21 anni il giorno che è stato ucciso mio padre. Lui era uscito quella mattina per comprarmi un'automobile. Era tutto in programma, un festeggiamento particolarissimo, perché poi eravamo stati lontani alcuni anni, quindi ci eravamo riuniti da 2 anni. Ma lei sapeva che suo padre era un boss? Piano piano, sì, perché ci sono poi stati dei cambiamenti nel corso della nostra esistenza. Un papà che regala un'automobile? Vabbè, forse perché doveva coprire tutte le mancanze dei compleanni precedenti. Quindi. Non lo vedeva da molto tempo? No, era stato detenuto alcuni anni, reduce di un processo nel Salernitano, il processo Mirabile, e quindi finalmente lo avevo con me, finalmente ero con lui a casa. Lei comunque, nonostante questo, studiava, se lei è oggi avvocato, faceva la sua vita di studentessa. Sì, era la sua volontà, oltre che la mia, quindi lui non avrebbe mai voluto i figli in questo ambiente, assolutamente, ci voleva studiosi, ci voleva realizzati, ci voleva come era lui prima che gli accadesse tutto questo. E lei come ebbe la notizia che fu ucciso quel giorno? Da un carabiniere, da un capitano, venne a casa e prima mi isolò in una camera, disse ti devo parlare, sapeva di questo fortissimo legame tra me e mio padre perché era venuto a fargli visita giorni precedenti, era venuto lì ad allarmarlo un po' perché era preoccupato per lui, avevano anche un bellissimo rapporto, dialogavano tanto, l'aveva messo in guardia e mi ha dato lui la notizia. Angelo Iannone, dal tuo punto di vista come ti ricordi il giorno che hai incontrato questa ragazza, oggi avvocato, e dovevi interrogarla perché... Diamo il contesto innanzitutto. Il contesto, noi stavamo praticamente ricostruendo, io all'epoca comandavo il Rossi in Calabria, stavamo ricostruendo una serie di avvenimenti che si stavano ancora producendo conseguenze in una fetta abbastanza ampia del territorio calabrese, la Sibaritide e la provincia di Cosenza, Crotonese, tutta quell'area lì. E stavano venendo fuori nelle nostre indagini degli aspetti abbastanza inediti di rapporti tra 'Ndrangheta e Camorra, tra 'Ndrangheta e Cosa Nostra, con affiliazioni incrociate. Sì, addirittura ricostruirmo che era stata messa in piedi persino da Pietro Vernengo, quindi uno degli esponenti principali di Cosa Nostra, persino una raffineria di eroina con l'appoggio dei calabresi in territorio di Crotone. E in questa ricostruzione cominciò ad apparire come un fatto strategico proprio l'omicidio di Mario Mirabile, che invece era passato come un omicidio come tanti, no? Invece era un omicidio che segnava proprio un cambiamento radicale degli equilibri dei rapporti criminali tra le organizzazioni in Calabria. Ecco, ci fermiamo un istante, dobbiamo dare la linea alle informazioni della borsa. Ricordo che stiamo parlando con Angelo Iannone, autore di Eroi Silenziosi, Data News Edizioni, e stiamo parlando con un personaggio che è raccontato in questo libro. Oggi avvocato Florinda Mirabile, allora figlia di un boss appena ucciso, che Iannone ha dovuto necessariamente nel corso delle sue investigazioni interrogare. Tra un istante. Potete riascoltare Melog in podcast su www.radio24.it. Melog, la realtà condivisa. Questa mattina stiamo parlando con l'ex tenente colonnello Angelo Iannone, oggi consulente aziendale, docente di criminologia alla Sapienza, persona che ha attraversato professionalmente vari decenni della nostra storia, soprattutto della lotta alla criminalità organizzata. Angelo Iannone ha scritto un libro, Eroi Silenziosi, Data News Edizioni, e noi ne parliamo questa mattina proprio per ricordare le persone che normalmente non vengono ricordate. Perché non vengono ricordate? Semplicemente perché non sono state ammazzate. Angelo Iannone, ci siamo interrotti, stiamo parlando di una vicenda importante. Tu ti sei occupato a un certo punto di alcune nuove e interessanti collusioni tra organizzazioni mafiose, fra mafia, 'ndrangheta, camorra, che era una novità, questa sorta di consorzio fra le grandi organizzazioni di malavita organizzata per trarre una novità. A un certo punto, nel 90, il 31 agosto del 90, venne ucciso Mario Mirabile, sì, un boss all'antica. E sì, tu sì, hai interrogato la figlia, che oggi è qui in studio con noi, che è l'avvocato Florinda Mirabile. Sì, praticamente noi stavamo cercando di capire intanto perché era stato ucciso Mario Mirabile qualche anno prima. E soprattutto cosa significava rispetto ai cambiamenti in corso in quel momento nei rapporti tra le varie organizzazioni criminali, quindi Cosa Nostra, eccetera. Venne fuori che Mario Mirabile era un boss veramente vecchio stampo, un boss vecchio stampo che è tornato in Calabria per evitare la degenerazione di quel pezzo di territorio, secondo ovviamente una certa prospettiva, che intanto stava cominciando a vedere il traffico di droga come uno degli affari principali. Quindi lui la pensava come la pensavano i boss di una volta, quindi niente droga, niente rispetto per lo Stato, per l'autorità, quindi un vecchio, diciamo, codice d'onore. E questo probabilmente fu uno dei motivi fondamentali della sua eliminazione. Fu ucciso per questa ragione. E quindi nell'ambito delle indagini, la classica nottata passata tra sigarette e caffè, un mio validissimo maresciallo, allora maresciallo Lardieri, disse: secondo me dobbiamo andare a interrogare la figlia, potrà farci capire molte cose. E allora che impressione ti fece? E quindi andammo a Salerno e rintracciamo Florinda Mirabile e sembrava che aspettasse quel momento, sembrava che aspettasse che qualcuno, probabilmente le aveva addosso il dolore che si portava da anni, aspettava che qualcuno, un'autorità, una polizia giudiziaria a cui raccontare quello che sapeva, che non è che fosse stato, diciamo, fosse determinante ai fini dell'arresto di mandanti o esecutori materiali, ma sicuramente ha dato un apporto significativo comunque di conoscenza in quel caso. Allora, avvocato Florinda Mirabile, abbiamo ricordato quel giorno come elemento emotivo e poi allacciarci attorno a una vicenda che ormai fa parte della storia. Sì. Lei si sentiva una collaboratrice giustizia a quel tempo? No, io non avevo proprio idea di cosa fosse poi questo ruolo, questa funzione. Io volevo solamente la verità, volevo che si conoscesse l'autore dell'omicidio di mio padre, perché ancora si brancolava nel buio, purtroppo. E mio padre non aveva poi così tanti nemici, anzi. Oggi condannato all'ergastolo. Ne aveva uno solo. È stato preso l'omicidio? Sì, sì, sì. Chi era? Era un certo Carelli Santo, che era il boss emergente che stava appunto. Quindi è una battaglia interna, sì, sì, per contendersi il territorio. Assolutamente, sì. Non c'era stato. Lei lo conosceva questo signore? Sì, l'avevo incontrato tante volte. Cioè veniva in casa? Sì, sì, sì, mio padre si recava da lui, inizialmente erano in buoni rapporti. Cioè un amico di famiglia? Rapporto di tolleranza. No, lui era una persona che era stata collocata lì da mio zio, Giuseppe Cirillo, che prima ancora di mio padre era stato il capo di tutta l'area cosentina, quindi era una derivazione, no? di questa organizzazione. Ma lei al tempo venne l'idea che potesse essere stato qualcuno del giro delle persone che vedeva comunque circolare attorno a suo padre? Immediatamente, perché avevamo già saputo di questo pericolo. Mio padre aveva avuto un colloquio piuttosto duro con lui, uno scontro verbale in cui gli aveva detto: io non ho intenzione di spargimenti di sangue, non ho intenzione di creare problemi, ho promesso anche alle autorità che ci sarebbe stato un cambiamento in questa zona e dobbiamo tutti insieme far sì che ciò avvenga. Però questo non era possibile perché c'erano i soliti interessi loschi, economici dietro, e quindi ovviamente era un'utopia. Però suo padre era sempre questo, comunque un boss della camorra, dell'andrangheta. Lei ne parla come, adesso con rispetto totale per l'affetto per un padre, lei ne parla come se fosse una sorta di potere tollerato all'interno dello Stato. Lo è diventato dopo, proprio per queste sue idee, per questa sua affermazione in quel contesto, ed era impraticabile. Ripeto, quando ci sono interessi economici così grandi, doveva essere realizzato il porto di Sibari, doveva avvenire il passaggio della droga proprio attraverso Sibari. Lui e mio zio si opponevano a tutto questo, quindi diciamo che suo padre era più un boss che guardava ad altro tipo di affari. Per lui gli affari erano gli appalti, era l'imprenditoria, era lo sviluppo economico e così via, quindi il controllo di queste attività. E invece Carelli Santo era un boss per il salto di qualità, era un boss emergente per il salto di qualità, quindi in quel periodo infatti ci furono anche molti omicidi in quella zona. 800 24 00 24, ripeto, chi avesse curiosità o interesse a sapere, conoscere alcuni aspetti particolari di quello che è stata le operazioni più note e più calcate anche dagli organi di informazione questi ultimi anni, faccia sicuramente domande, perché Iannone è una sorta di enciclopedia vivente rispetto a questi fatti. Andiamo avanti, vi faccio sentire un altro passaggio del suo libro. Capizzi, mi ascolti. Se le chiedessi di far saltare la rete telefonica in un'intera via e le chiedessi poi di intervenire personalmente su un utente, cosa mi risponderebbe? Il suo sguardo, fino a quel momento cordiale e compiacente, si spense. Le rispondo, capitano, con rispetto parlando, che è un pazzo e che sarei un pazzo. Non lasciava spazio a repliche. Lei mi sta chiedendo di farmi licenziare, capitano, aggiunse. Ah, dimenticavo, Capizzi, complimenti, aggiunsi dopo la stretta di mano e mentre Saita lo bloccava per evitare che si recasse al bar a pagare il conto. Bella donna, non c'è che dire, bella signora. Sì, insomma, l'altra. Capizzi spense il suo sorriso. Mi sentivo uno sporco ricattatore, ma alla fine avevo ottenuto ciò che serviva. Mi ero comprato una preziosa collaborazione, a buon mercato. Dopo qualche giorno, l'intera via Scorsone a Corleone rimase con i telefoni muti. Angelo Iannone, di cosa stiamo parlando qua? Stiamo parlando di un episodio abbastanza curioso. Con Giovanni Falcone si partì all'attacco, quindi con le intercettazioni ambientali. Il problema era come mettere concretamente in campo. E lì veniva il bello. Avevamo i nostri bei decreti di intercettazione, tutte le raccomandazioni sulla riservatezza, eccetera, eccetera. Però il problema era collocare queste microspie. E allora ci interessammo a un po' di tecnici della SIP dell'area, no? E capì che quello poteva essere il nostro cavallo di Troia, non c'era altro da fare. E il solito appuntato Saitta, che era sempre molto ben informato, mi ricordò che uno di questi tecnici, il cui nome ovviamente nel libro è di fantasia, uno di questi tecnici aveva una storia segreta con un'altra donna diversa da sua moglie. Il problema è che quest'altra donna era anche la moglie però di un mafioso. Quindi fissai un incontro con questo tecnico a Palermo per un caffè e gli chiesi di darci una mano, senza ovviamente dargli troppi dettagli. Doveva sostanzialmente far saltare la rete telefonica di un'intera via e intervenire personalmente poi laddove ci serviva che intervenisse. Lui non era tanto d'accordo agli inizi. E lui ovviamente, assolutamente, lei mi sta chiedendo una cosa illegale, non è possibile, lei mi vuol far licenziare. Dico va bene, allora come non detto si dimentichi quello che le sto chiedendo. E a proposito, complimenti per una bella donna. Insomma, lui capì immediatamente. Rischiava la pelle lui se questa cosa fosse circolata. Sì, ovviamente non sarebbe mai circolata comunque, però dovevo provarci, insomma. Quindi da quel momento ci conquistammo la sua collaborazione, ecco. Francesco, buongiorno. Buongiorno Nicoletti e buongiorno agli ospiti in studio. Volevo proporre una piccola riflessione riguardo al tema e riguardo alla rappresentazione di questi personaggi della malavita più o meno organizzata nella cinematografia, visto che l'ospite in studio ha direttamente contrastato il fenomeno malavitoso. La mia domanda era riferita anche a ciò che ha più volte detto Saviano. Nel racconto cinematografico e letterario di questi personaggi non c'è un'eccessiva mitizzazione, se penso per esempio a romanzo criminale, sia alla serie che al film, che al telefilm di qualche anno fa del Capo dei Capi, che sì, è uscito delle ma anche su Vallanzasca, anche sulla banda del Brenta, esatto, ce ne sono stati. Esatto. È logico, mi ricordo che quando dette Saviano l'autorizzazione a fare il film Gomorra, dette precise indicazioni a Matteo Garrone di non creare in nessun modo qualsiasi punto di simpatia verso i camorristi. E ci sono due esempi fantastici, che erano Scarface, che di fatto è la storia di Al Capone, e quei bravi ragazzi, che anche quello è una storia vera, dove l'osservatore è quasi portato a fare il tifo verso il malavitoso, che riesce a vincere verso la forza di polizia che lo contrasta. Beh, fu talmente bravo che molti dei protagonisti del film tratto appunto dal romanzo di Saviano poi sono anche molto finiti male, perché erano realmente diciamo scelti con intento neorealista, erano veramente ragazzi che poi avevano a che fare. Molto velocemente, Angelo, rispetto alle rappresentazioni di queste realtà. Io capisco la perplessità del radioascoltatore, che è condivisa da molti e da me compreso. C'è il rischio che la descrizione, poi in realtà questa è la descrizione realista a mio avviso, la descrizione realista è quella che io faccio di queste persone, anche se mi rendo conto che proprio la descrizione realista, cioè quando parliamo di queste persone con tutti i loro aspetti al di là della legalità, perché c'è una separazione a mio avviso tra la legalità e l'etica, noi ci troviamo a volte con personaggi mafiosi che hanno un senso dell'onore che comunque va considerato, va preso in considerazione. Ma mi rendo conto ovviamente che questa rappresentazione rischia però di far venir meno quel necessario isolamento che invece... Fermiamo un istante, Angelo, dobbiamo dare la linea urgentemente, sì, alle indicazioni del traffico, poi riprendiamo con te con i tuoi ospiti. Melog, la realtà condivisa. Stiamo parlando, come ho detto, con Angelo Iannone, autore di Eroi Silenziosi, Data News Edizioni, libro che parla appunto di una serie di silenziosi funzionari dello Stato che però hanno dato un contributo definitivo e importantissimo con la lotta alla malavita organizzata. La figura del pentito emerge nel tuo libro spesso, una figura contrastata. Abbiamo in studio l'avvocato Fiorinda Mirabile, che non è un pentito, era la figlia di un boss che voleva testimoniare, anche perché per lei era prioritario consegnare la giustizia l'assassino di suo padre, certo, che poi, come abbiamo sentito, è una persona che frequentava naturalmente suo padre, come accade molte volte in queste vicende. C'è sempre un passaggio, un secondo in grado che deve uccidere il primo per prendere il suo posto. Beh, Fiorinda Mirabile rappresenta comunque un positivo cambio generazionale, perché lei non ha pensato ad uccidere il mandante dell'omicidio. Sarebbe stata la regola quella. No, ha pensato di avere giustizia dallo Stato, quindi già è un fatto positivo. E tra l'altro, invece, quale sarebbe stato l'atteggiamento tradizionalmente legato appunto a una sorta di codice d'onore? Cosa avrei dovuto fare? Stare zitta, non dire nulla? Non dire nulla, omertà più assoluta, nel frattempo preparare la vendetta. Avvocato Fiorinda Mirabile, le è passata mai questa idea per la testa? Sì, mi è passata, e c'è stata anche un'iniziativa in questo senso, nel senso che io ho avuto paura, non avevo fiducia, non avevo fiducia nelle istituzioni. Mi sono ritrovata a un certo punto della mia vita, lo stesso punto in cui si ritrovò all'epoca mio padre, ad un bivio, scegliere tra giustizia e crimine. Nell'altro senso, cosa avrebbe dovuto fare materialmente? Rivolgersi a qualcuno ancora più forte? Non credo molto. Nulla. oltretutto, voglio dire, non era la figura ideale per agire in questo senso. Però l'isolamento e le persecuzioni, perché poi questa persona non si limitò solamente ad uccidere mio padre, Angelo se lo ricorda benissimo, ci ha riempiti di violenza, di persecuzioni, di paura, senza distinzioni di sorta, grandi, piccoli, uomini, donne, amici, nemici. Non... Ecco, ma secondo il vecchio codice, una donna cosa avrebbe dovuto fare? Quali erano le sue possibilità? Rivolgersi ad un altro boss. Poteva solo rivolgersi a un altro boss. Sì, sì. Poteva solo fare. Poteva stare attentissima a scegliere la persona giusta. Se no, rischiava di peggiorare ancora più le cose. E poi disposta anche ad iniziare una guerra per un problema, per lutti non propri. Insomma, era morto mio padre, non era morto il padre di qualcun altro. Quindi era veramente difficilissimo tutto questo. Tra l'altro, Gianluca, più volte io tocco nel libro il tema dei figli. Perché c'è per esempio un altro passaggio che si riferisce, se non ricordo male, al figlio di Giuseppe Iarinò, ad un altro boss latitante, e c'era questo ragazzo invece, classico ragazzo per bene, che studiava, che cercava in qualche modo di smarcarsi dal cognome scomodo che portava. E questo è un tema che dovrebbe farci riflettere, perché in un'Italia inevitabilmente fatta di pregiudizi, noi consideriamo i figli dei boss, i figli dei mafiosi, i mafiosi di default. Devo dire che in parte è vero, perché il vecchio codice d'onore li considerava tali, cioè secondo le vecchie regole del codice d'onore un figlio di un boss non aveva nemmeno bisogno di essere affiliato, un figlio di un grande capo, c'è un passaggio capo, genetico, perché proprio c'era quasi un passaggio genetico. Però nella realtà fattuale questi sono ragazzi che hanno delle enormi difficoltà, perché l'etichetta che derivante dal cognome spesso rischia di far sì che sia la stessa società che li porti a diventare, a seguire le orme dei padri. Cioè hanno poche scelte. Hanno poche scelte, poche opportunità. E in questo caso l'investigatore ha questo ruolo anche molto delicato di rompere il passaggio. Di saper rompere, ecco, infatti l'equilibrio estremo che deve saper mantenere un bravo investigatore deve essere quello di saper circoscrivere in maniera chirurgica il tumore, evitare quella massificazione che ha fatto tanti danni in alcune investigazioni del passato. Nel tuo libro parli anche di realtà, perché noi quando pensiamo appunto alla malavita organizzata pensiamo endemicamente riguardante solo alcune regioni del nostro territorio, ma tu sei spostato in tutta Italia. Sì, sì, beh, anche una bellissima esperienza in Veneto, dove inizialmente mi sembrò di arrivare in un altro mondo e poi dopo un po' mi resi conto che la cosa meravigliosa è che i carabinieri sono uguali dappertutto. Cioè i carabinieri alla fine sono sempre quella strana specie animale, come dico nel libro in maniera scherzosa, che dà molto se riconosce il leader. E ci conferma questa mattina Angelo Iannone, carabinieri si è per sempre. Si è per sempre. Anche se oggi non sei più tenente colonnello. Ricordo allora, ringraziando l'Angelo Iannone, Eroi Silenziosi, Data News Edizione, ringrazio anche l'avvocato Fiorinda Mirabile, così cortesemente ci ha raccontato quello che è sicuramente un episodio doloroso della sua vita. Grazie a Fabrizio Intonti, grazie a Alessandro Chiappini, ci sentiamo domani.